sono, diciamo, 40 watt ciò di pulito, di portante fissa, e modulati arrivo anche a 60-65. No, io ne ho molti di meno, la metà, anche meno della metà dei tuoi. Com'è il mio segnale di linea, Emma? Qua il segnale si da 7 all'8. Io sto cercando una diecina, saranno non di più. Più la modulazione arriverai al doppio, minimo, 3 volte, dai. Ok, e comunque ti ascolto perfettamente. Vediamo se Saverio c'è ancora, avanti Saverio. Sì, sì, sono qua, ho lasciato il microfono alla tavola, ma stai restando ora, Roberto? Vabbè, vai benissimo adesso, finalmente ti ascolto forte e chiaro. Va bene, vedi Urgi, dai, tu vi ripeto. Sono questi giorni cercheremo di migliorare. Non è, diciamo, con un tempo, ma cercheremo di fare il possibile per uscire come prima. Datemi un attimo il bianco, devo fare un'altra fatta e vi richiamo subito. Sì, salve, che antenna devi montare? Ho preso la nuova, la AT94, la Rigolem, l'ultimo modello. Beh, no, non la conosco. Fuga 5 ottavi, sì. No, negativo, è lunga 5 metri, è una mezza onda, ma già va bene, dai. Che cazzo, dai, vedremo, se adesso mi vuoi dire il tuo segnale, vediamo un po' se cambierai nei miei confronti. Avanti, Franco. Cazzo, va bene, vedi, la FM l'ascoltavo molto meglio, qua l'ascolto con un segnale di 3, con una radio di 4, dai, è abbastanza appello comprensiva. Franco, io quanto arrivo in AM? Tu qua in AM mi arrivi 7, mi arrivi, la radio è bellissima, 5, bene vera, avanti ancora te. Becca, farà, e c'ho l'antenna piena d'acqua, non posso modulare, c'ho stazionarie. Ma almeno l'avessi piena di vino, sarei venuto a bermi un guccio. Ciao, da lì, svita il tappo sotto, c'è il tappo, svita e metti un secchiello. Però accendo in altra l'antenna, ti viridisci. Deve essere che non lo sai come è messa l'antenna mia. Via. La devo cambiare comunque. Se me la cambio, cambierà tutto. Ma Natale, ma non l'avevamo vulcanizzata perché? Come? Non l'avevamo vulcanizzata. Ma entra dal gommino dove c'è la bobina. Lì è che si tiene e mi manda la bobina in corto. Ah, è vero che c'è quel problema, perché mi ricordo l'avevamo vulcanizzata. Vabbè, comunque qua c'è 9 più, perciò stai arrivando benissimo. Anche qua 9 più 10. Ciao Franco. Ragazzo, come va? Bene, ogni tanto mi sposto ai fornelli, ma già va bene, vi sto ascoltando, riprendete. Roba buona di cucinelli, saluti. Buona. Quelli ricchi non la mangiano. Claudio, ma lui c'è nel caldo. No, niente, Sarri. Ma io non c'ho più ricco e mangio la fava, mi piace un bel. Buona vita, l'ho mangiata ieri. A me mi sembra che un goccio va via, non è che serve condensato riscarichi questo microfono. Forse questo dice una cazzata, ma le sto pensando tutte. Non è il condensatore, no, quel microfono, non lo so, Natali, sentite già che c'è video. Non vai piano di massa, non hai compreso che non vai piano di massa. Antenna fischia il microfono perché non c'è pieno di massa nell'antenna e ce l'hai pieno di stazionari e cose. Sì, quello l'avevamo già dato per scontato. Sicuramente la più sicura è quella lì. Comunque vedi, adesso ha migliorato. Io che a migliorare sono stato più fischiando. Va bene, dai. Ottimo per la truppa. Beh, io non so cosa faccio adesso, devo mettere a friggere i funghi, devo friggere i funghi che sono a bagno dell'uovo. Li devo passare nel pane grattato. E io devo essere solo lì atrà. Certamente che sì. Vabbè, io cucino ogni giorno in pizzeria, va. Sì, ho trovato un po' di antuna sabato, ma sono andato sabato sera, ho trovato quelli che si hanno dimenticato gli altri, però una spaghettata ce l'abbiamo fatta domenica, dai. Già va bene. Dai, è partito il Cirighino. Sono rientrato. No, verso Torramba. Cirighino, Torramba, Bondandaro. Guarda, non li abbiamo fatto così, ma un paio d'ore, perché poi fa buio subito. Già va bene, ripeto, va bene, sento se sei entrato. Visto che sei tu, sei appassionato dei funghi, cosa, Franco? Io sì, mi piace, non conosco tantissimi tipi di funghi, però mia sorella invece lì è esperta, perché studia, va, è iscritta a un gruppo, è un cinghiale, se la vedo per pasta lì neanche, ma neanche cinghiale davvero. No, io una volta sono andato con mio cugino, mamma mia, poi ci abbiamo buttato tutto, li abbiamo fatti vedere, bene, questo è buono, abbiamo fatto abbastanza, infatti non mi fidavo, mi sarebbe piaciuto, mio suocero lo faccia buon'anima, andava, lui li seguiva, li conosceva, però dice, se no vado all'istituto micologico, te li guardano loro e tipo non se sono bulli. No, volevo fare una domanda, ma gli asparagi è già a tempo o è troppo presto? No, è presto, qualcosa è uscita dove è passato il fuoco, magari che fa un po' di caldo, un po' d'acqua, allora escono, però ancora è presto per gli asparagi. Quindi quando iniziano a uscire quelli, prima di primavera, verso marzo? Sì, quando inizia a scaldare un po' il terreno, perché l'acqua c'è, adesso c'è bisogno di calore, e loro escono subito fuori. Ripeto, dove è bruciato escono subito, invece lì dove sono le piante tardano un po'. Ehi, avanti l'altro fratto di sorso. Non è tempo ancora gli asparagi. Piano, già ci arriviamo, facciamo un'altra mangiata. Io ho la fortuna di lavorare poi all'aperto nelle campagne, quindi qualcosa si busca sempre. Avanti, Claudio, se sei libero. Sta girando Maialetto ancora. Chi è rimasto? Ma quale Maialetto? Sta girando due fave. La betoniera, Claudio, da quando si è trasferito ogni giorno di trattoria? La campagna fa questo effetto, io sarei stato così lo stesso, infatti mi manca molto la campagna, dove sono nato specialmente, le mie zone. Chi ci è rimasto? Salverio? Salverio mi sa che è andato così, Salverio sì. Dove è andato? E non stavo salutando. Mi sono capitato, Un attimo che sto mettendo pure i cromati della versione prima serie, ti sto ascoltando. Ah, in lavorazione, dai. Poi chi è rimasto, Roberto? Aspetta, chiama Gianfranco a vedere se è riuscito a fare qualcosa. Ci sei Gianfranco? Sta battagliando per il computer, Gianfranco. Gli sta facendo uscire, come dici, mi rifendici in luce. Il laboratorio è ancora. Piovendo sta, no? No, non ho manco visto, quando sono salito all'officina non stava piovendo, domani non dovrebbe piovere, dovrebbe fare una discreta giornata, poco nuvole, però non piove. Stamattina ci ha beccato un po' all'inizio, infatti stavo seguendo un'impresa e sono andato via, come diceva mio nonno, sarebbe bella da dentro in campagna, sono andato via, ha smesso di piovere, è uscito il sole. No, stamattina è venuto Eugenio, siamo stati non meno di tre quarti d'ora, venivamo giù siccome il portatore dice che non ha piovuto, dove era lui, e nel coso stava pulendo il cielo, a quando arrivavamo ci ha messo quasi un'ora prima di smettere. La prima zona che ha scritto, infatti era la zona di Porto Torre e Sentino, ho visto che era già azzurro lì il cielo, però poi piano piano il tempo buono è salito fin qui a Sassari, li ho richiamati, abbiamo finito poc'anzi i lavori, verso le 5 e un quarto, erano a battere dei due alberi, due pini, con la scala aerea, dai, piano piano, perché sotto ci sono dei magazzini e cose varie. Io volevo allontanare qualche minuto, ci sentiamo tra poco, scusatemi un attimo. E anch'io mi ha pure di parlare di mangiare, mi stai avendo la fame. Avanti, Fra. Non mangiare. Dimmi una cosa, Fra, ma tu sei collega di Augusto? Sì, è pensionato. Che eravate colleghi? Lo conoscevo già da prima, quando era guardia barriera. Poi è stato assorbito dall'azienda. C'ero anch'io lì con lui, c'ero. L'altro passaggio ce l'avevo io. Mi ricordo c'era Mario Lucia, quello di Mario Lucia. Esatto, quello era il mio, l'ho lasciato io a Mario. Ah, in ereditai. c'ero io, ci sono stato un anno lì. Poi sono tornato al mio lavoro, lì era tutta una presa per fondelle. Io se non sbaglio, tu sei venuto anche a casa mia quando abitavo in campagna, però, proprio con Augusto. Provarsi, non mi ricordo mi fra. Provarsi sì. Ma ti parlo di minimo 40 anni fa, mi. Più o meno è quella. Stavo parlando di quando ero lì, così. Io abitavo nelle zone di Villa Gorizia, non so se ti ricordi. La zona, se la conosci, dai. Villa Gorizia, sì, allora sì, sono venuto. Allora sì, adesso mi sto ricordando che una volta ero venuto a casa di un CB lì a Villa Gorizia. Sì, io avevo l'antenna lì, in una dispensa, dai, una dependance. faccio una manta fa uno. Capo, però vabbè, allora ci conosciamo oggi. Beh, di vista, magari siamo cambiati in questi, questi anni. Sì, già ti credo. Eravamo ragazzi allora. Oh, scusate, c'è Salvidio. Noi invece si sta cambiando i pomelli. Chiamalo. Salvidio, ci sei? Abbiamo mandato un messaggio, perché dice che stava facendo una prova dell'MB più 5, là, vabbè, proseguito, sono qua, l'ascolto. Figa, io sto sbagliando. Sì, stava facendo delle prove, prima ne scava e dopo no, quando agganciava l'Alfa Lima. E un po' c'è Roberto rientrato, negativo. Claudio, ci sei? Vieni, rubati un buco, guarda, te la brava. Le unghie sta togliendo. Alleluia. Scusa, se c'è qualcuno. Vale, ci sei. Mia Salvi, mi stava cercando Luca, Salvi. Ehi, dimmi, oh Luca, adesso sto piantando i pomelli cromati. Sto levando quelli neri, sto mettendo quelli cromati della prima serie. Qui, ma manca Luca, vedi. Alleluia. Guarda com'è. È più carino, col frontale nero, però con i pomelli cromati. E lì, ho personalizzato. Già va bene. Ma questo è tutto cromato, L'altro c'aveva il frontale, il vecchio modello del presidente aveva il frontale modello americano, frontale silver con i pomelli tutti cromati. Penso io sto prendendo i pomelli cromati di quello vecchio che ho, che è incidentato, li sto trasferendo qua. Sì, questo è tutto cromato, sia la mascherina che i pomelli. C'hai anche il frequentimetro? Sono negativo, ma ho dietro uno spinotto che lo puoi attaccare sempre a questo momento. Invece a questo gli manca, vedi quell'attacco lì, peccato. Infatti l'altro presidente vecchio che ho non ce l'ha, quell'attacco lì. Ce l'ha questo perché è più moderno, questo qui è gli ultimi presidenti che hanno fabbricato che sono fatti in Francia, mentre l'altro dovrebbe essere male in Giappa. Quindi quell'attacco del frequentimetro è originale, non è una cosa aggiunta. E non si vede dove vanno i fili? Si sono collegati in serie, in parallelo, cavolo si dice, No, è nato così di serie, così, c'è un attacco dietro per mettere il frequentimetro. E l'altro non ce la ferma. E vanno i fili, si vedono due fili, che tre fili, che partono da dietro dove ci sono i cosi delle cuffie e vanno davanti, tre fili. Non si vede se vanno direttamente a. Dove vanno? Allo Smither? Non ho visto bene. Aspetta un attimo, faccio questo riprendo, ma ti faccio un pomello in mano. Avanti, fra. Sento che sta parlando, ma non lo sento più. Non lo sento. Aspetta, Augusto, niente ti ha detto. A che proposito? Gli avevo chiesto una cosa a lui, mi ha detto, dice ormai sono andato in pensione, dice non ci riesco più a buscartelo. Un pezzo, non so se sta parlando di niente. No, non mi viene in mente niente, boh. Binario. Da quanto? Pezzo più grosso. No, ma il peso mi fa che c'è da 36, da 27 kg a metro, boh. Che cavolo? Quanto è lungo? No, diciamo che questo è il peso, in base al peso è la sassa della rotaia, cioè, perché parte non so, da 21, da 27, da 36, da 50, da 60, vai, noi non ce l'abbiamo, noi arriviamo a 36, però 36 kg a metro, quindi un metro di rotaia pesa 36 kg, poi c'è quello da 27 che pesa un metro 27 kg e così via, dai. Un pezzettino solo per fare un piccolo incudine. Ok. Sì, ma invece qualche pezzo, sì, quindi non basta un pezzo da 30 cm, 40 cm, dai. Va benissimo. A Puglia, tanto poi va tagliata. Oh fra. A me, a Franco le dai il pezzo della rotaia. A me mi dai la rotta di rotaia non vale incudine. ma devi fare. Cosa tonda devi fare? Devi piegare qualche centina? Allora, Anna ci mette in mezzo. E la scurezza. Allora, ha detto che tutta è fermata la schiena, bongo la ruota, la giro. Il ci deve schiacciare. E a Sosso non c'è rimasto più nulla. Tutte le rotaie che c'erano lì a Sosso sono tutte date al suo vecchio. Lo so, perché l'ho chiesto a Vico e Vico mi ha detto non c'è più niente. No, se trovi qualche pezzo lo trovi a Sassari. cazzo, infatti l'ho detto Augusto, e vabbè, ti metto la porta, te la porto, e poi se le depressioni, non lo so più. Ma sai, no, non si è fatto più sentire, qualche volta l'ho visto lì in stazione, e basta, poi non si è fatto più né sentire né vedere. Tanto fra, dimmi, tanto c'ho più ingrancenti, più avanti c'ho più piscione che andiamo tra valenti e Augusto non ingranci. Ma sono tutti, ti dico una cosa fra, io guarda quando ero al lavoro portavo roba a tutti che me lo chiedevano e me ne domandavano un bel. Adesso non vergogno di chiedere ai miei colleghi. Scusate che riprendo io, perché vi devo salutare. Mi chiamo la cucina, insistentemente, se no qua mi metto le mani addosso. Vi saluto a tutti, vi auguro un buon proseguo. Magari se coincide ci sentiamo dopo se c'è qualcuno, se no alle prossime. Correttiva da parte mia. Salutone circolare. Ciao Gianvi, un abbraccio, vai fra. Ciao Gianvi, alla prossima. Avanti Franco. Ciao Fabrizio, alle prossime sentiamo. Capito qua? Ma ci vergogna di andare a domandarle a che cosa? No, io no, fra la verità. No, non posso dire, perché a me, ad esempio, ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, il collega che scende da oggi lo passa, se prende il caffè mi lascia un bidone di ipoclorito, io varechina non mangio mai comparato. Quindi me la seleziono, me la diluisco, mi serve per pulire, per fare, anche per il cane, per dove sta il cane, eccetera, per disinfettare, eccetera. Poi qualsiasi cosa mi serve, la verità, pacca lavamani, guanti, cose in lattice, l'igienizzante per le mani, quello, la mucchina, di tutto, fra busta di bombezza, la verità, mi portano tutti i colleghi, no? Ma anche certo io mi chiamo, qua niente ti serve, ma tieni conto che io con questi ragazzi, con questi colleghi, ci sono stato 20 anni, ci avevo una squadra favolosa, proprio eravamo come tutti fratelli, non gli ho mai negato niente perché ero responsabile, qualsiasi cosa mi chiedevano ero sempre alla mano, cambi di turno, di tutto e di più, quindi mi sono sempre comportato bene con loro e loro hanno tenuto questa grande stima nei miei confronti e la verità non mi fanno mancare niente. Sì, sì, e vabbè, quello è diverso. Io ho chiesto un giorno, ho chiesto a uno di fare una cosa, cioè me l'ha portata, però non mi piaceva come, vabbè, non ho chiesto più niente a nessuno, non me l'ha fatto niente. Avanti qua. E poi come te lo faccio avere questa roba qua? Dai, già, se ce l'hai, non ci sono problemi, vengo con Augusto, dai. Perché bisogna tagliarlo, dai, vuole un pezzettino, già si busca, non è quello il problema. Dai, già ci aggiorniamo allora, è una cosa fattibile, dai. Avanti, fra. Capo, se è possibile, se no lascia fare, non è questo il problema. Poi, se quando ce l'hai, lo dico a Augusto, e gli dico, io che andiamo da Franco. Lui lo fa dove sei. Sì, lo sa, c'è anche il numero di telefono, già, non c'è problema. Allora non è un problema, dai, ci contattiamo tranquillamente. Dice che mi chiami così, o sempre quando passa qua glielo do, ormai me lo porto a casa un pezzo, sempre che mi ricordi, me lo devo ricordare, basta, solo quello. Poi il pezzo già si trova, qualche pezzo si trova, anzi se non sbaglio ne ho uno anche da parte, ma quello lo volevo tenere per me, quello da 36 è grosso, forse anche di più, forse del 60, lì proprio ci esce una bella, un cudine, perché è del ferrovie dello Stato quello lì, ma lì esce proprio bene. Capo, quello grosso mi serviva un po', però me lo buscano com'è, dai. Sì, no, di quello ne ho solo uno, quelli bisogna aspettare quando fanno lavori i nostri colleghi delle ferrovie dello Stato e chiedere un po' a loro, perché anche loro non è che possono darlo perché è tutto pesato, infatti quando loro ci danno un pezzo del loro ferro noi gli diamo l'equivalente in altro materiale. Ho capito. Non ci buttano niente, no? Loro sono molto, molto fiscali rispetto a noi, noi siamo un po' più di manica larga, loro tutto quello che avanza devono catalogarlo e buttarlo nei vari mucchietti che hanno, no? Con l'etichetta, che tipo di ferro è, e quindi hanno lo smaltiscono poi, capito? Deve quadrare tutto. Se ti danno un petto da 10 kg, gli devono rientrare 10 kg di ferro. Va bene, dai, quando capita, se si può, niente di cose. Ok, Claudio! Ehi, ehi, come noi, fra, è come noi. Devono fare il formulario, capito? Quando c'è lo smaltimento, il recupero, il cambio tra impianti e gestione, devono tornare i conti, perché cazzo, io c'ero vero guccia. Io mi ricordo, abbiamo demolito un impianto e avevo il caposettore, cazzo, sempre mezzo alle balle, ci serviva un po' di roba a noi, è vero, il caposettore sempre in mezzo. Rotto, ma non c'è niente da fare stamattina. No, Marte, no, sono qua di passaggio. Ma scatene fuori, ragazzi, non siamo andati mai, non siamo andati mai, perché è venuto Nanni Tavoni e ha smantellato, hanno portato via tutto un impianto vecchio, hanno fatto nuovo, ringhiere, pezzi di lamiera, di tutto, dei sedimentatori, chiarificatori, le griglie vecchie, ma un sacco di ferro c'era. E cazzo, era roba, capito? Se noi potevamo tagliare con la molla, farla a pezzi e vendicina, e noi ci verrà sempre lì che mette le balle, perché una volta puoi fare il formulario, quello pesa, una volta che carichi sullo scarrabile puoi fare il formulario per portarlo via, c'è il peso e tanto deve dare tanto, capito? È un casino, e te la sempre mettere i piedi, infatti è la cosa con il tiro tanto Vascone. Sì, appena capita qualche lavorazione, qualche saldatura da rifare, dai, quindi si bonifica, qualche pezzo già si busca. Bisogna baccare il momento giusto, che ci sei tu e che non ci siano rompiscatole in mezzo ai piedi. Quello sì. E come facevamo noi, lo stesso. Quando c'erano i signori davanti, nascondevamo tutto. Allora, poi dovevamo furato Girani. E fare così, io un giorno ho impianto di Santa Maria Covinas e avevano messo i cancelli nuovi, ma no, belli, cancelli tutti zingati. Adesso che avevi domandato per fare i controlli degli impianti, perché uscivo, il primo che uscivo ero io a fare i controlli, a fare le letture eccetera, e poi alle volte arrivavano i conduttori. Cazzo, quando a Santa Maria Covinas se non aveva più il cancello, con amore me ne viene tagliato di netto, ero piantone di zingari e se ne viene buttato. No, da noi sono stati più bravi, a noi i pilati li hanno lasciati, poi i cancelli, tutti e due, sia il primo d'ingresso che il secondo, furati tutte e quattro le ante. E da noi le due ante hanno tagliato le sole cerniere e hanno lasciato i piantoni, capito? Ma bello è tagliato, bello a mola. Ho telefonato, al dirigente, c'è la piazza per Santa Maria Covina, sì, vedi che la bella, no? Sì, bellissimo, ti mando una foto, non vedo più il cancello. No, noi siamo potuti la zona di Mamuntanas, infatti adesso lì abbiamo chiuso con della rete retrosaldata, intanto è inutile mettere i cancelli che te li fregano di nuovo, inutile, avanti fra. Così a quello lì gli serviva, cosa è inutile che tu, lui va andando a comprarlo un cancello che gli costava una cifra quando ce l'ha già fatto. Guarda, te ne dico un'altra, ma così giusto per ridere, perché giustamente, sempre perché io uscivo molto prima, d'inverno io alle 6, per dire, il primo impianto facevo da Sassari a Ogilo, allora facevo quella zona, facevo Ogilo, Santa Vittoria, San Lorenzo Valle, poi salivo da Sennone, no, facevo tutta la cosa, Buzzi, Terico, Sedere e Nulvi. Poi sono arrivato proprio al sopra dove c'è il campo sportivo, perché l'impianto è sotto di Ogilo, ma cazzo, domani le faccio una lettera di richiamo, gliela faccio, mi ha rotto le balle. Poi siamo molto amici, ma ho detto così perché ero incazzato. Ogni volta ci dimenticherà di attivare il timer per accendersi le luci, per non stare l'impianto al buio. E vabbè, è andata così. Ci ho goitato durante l'impianto, sono andato proprio al cuore elettrico per tirare su l'attivazione del timer e invece era attivo. Cazzo, qualcosa è successo qua. Altro capo, fra, non c'era un faro, quei fari grandi, quadrati che illuminano tutto l'impianto, non ve n'era uno. io non riesco a capire, c'era intenzione il quadro, come hanno fatto a tagliare i fili? Come hanno fatto? Bello, conoscevo l'elettricità più di te, conoscevo, sapeva come tagliare i fili. Ma roba da matti, tagliato a furia, di netto, direttamente dalla guaina, bello, boh, ha giudito, qualche giorno ci rimane attaccato qualcuno, infatti sono salito sui carabinieri, ho fatto la denuncia contro Ignotti, maestro maresciallo, ma i fari, solo i fari ci hanno portato via, state attenti che qualche giorno ci portano via l'impianto, perché stanno rubando, a tutto rubare qua nelle campagne di oggi, lo stanno aprendo campagne, portando via, addirittura stanno portando via trattorini interi, non ho capito come cazzo facciano, ma ha detto maresciallo, capito, per dirti, quindi bisogna stare attenti, un bel, ma non solo quello, lascia perdere, due cose imparivano, poi qualcuno diceva, siete voi che lasciate aperto, qui lasciate aperto, quindi ci avevano dato l'incarico alle 2:30, quindi io dovevo uscire alle 2, arrivavo a casa alle 4, perché dopo che andavano via tutti i conduttori e gli impianti erano tutti incustoditi, io dovevo fare il giro di controllo per vedere se erano tutti chiusi, attivati i sistemi di allarme, attivato tutto compreso. Così è qua. Purtroppo in Italia abbiamo, c'è molta gente che ha molta molta fame e allora rubano per farsi soldi, per mangiare. Avanti fra. No, c'è l'ultimo, ma ci stanno rubando adesso i catalizzatori delle macchine, perché non so che tipo di metallo c'è all'interno, che è un metallo pregiato. Vabbè, amati, ti trovi la macchina capottata a ruote in alto e gli manca il catalizzatore. Avanti, Ocla. E sciuga. La mia è di quella del vecchio campo, quindi sicuramente il materiale è buono, però devi avere un po' di salita a scavalcare il cancello. A parte il fatto è tutto acceso, però dico le viene un po' male. Già. Non infatti, no, da in città lo fanno nelle vie buie, nelle cose dove possono farlo, capito? Un casino. Allora già i pratici si sa chi di Utah e Cibianchi, noi li chiamavamo i big bag, no? Forse anche voi, no? Quelli dove mettevi le TVC eccetera. Allora sai a noi come arrivavano? A quintali, tutti piegati, belli, tutti a posto. Io c'avevo un magazzino proprio a Valle Doria dove gestivo questa cosa, no? Per esempio l'impianto di Baresi mi diceva, mi servono due big bag, vabbè te li porto io, vieni tu, no, li avvengo io, apri un magazzino e gli davo una lì, sugar arrivato in Chivi verso le 8-9 del mattino, perché dovevo prendere roba al magazzino e c'era la serranda, deve essere che l'hanno col coso, col piede di porco, l'hanno forzata, aperto la serranda, ci hanno portato via 200 big bag, quei sacchi bianchi, quelli grandi, enormi, che usavate anche voi, poi ci hanno portato via tubi, attrezzatura, tutto, l'hanno imbiudato. Lui di quelli arrivavano articolati da lui, quella roba lì, perché ne facevano 5-600 al giorno. Non 5-600 al giorno, no, però per la provincia di Sassari, con tutti gli impianti di depurazione che ci sono, io ne davo un bel. Sono anche costosi, perché sono robusti, già lo sai, che andano una volta sono pieni, poi vanno chiusi, imbragati col gancio della gru, quindi devono avere un certo, devono essere di un certo livello. Riprendi fra, che vado a pulire a Filippo che sta bevendo. Riprendo, ma vi saluto, che qui bisogna iniziare a fare qualcosa per la cena, dai. Un abbraccio a Franco, un abbraccio anche a te, saluta in casa Claudio. E ci sentiamo alle prossime. Riprendi Franco. Ecco, facciamo qua, buona cena, buon tutto, ci sentiamo, ci risentiamo. Io saluto anche a te perché mi stanno chiamando a me a mangiare. Ci sentiamo tutte le prossimine. Ciao Franco, ciao Claudio. In tempo a salutarvi, ciao Franco Binario e ciao Franco di Sorso. Buona cena e buon tutto. Ciao, va bene, un abbraccio anche a te, buona cena, buona carica. Ciao Franco di nuovo, ciao Claudio, alle prossime. Ciao Roberto, ci sentiamo. Quando vuoi, volentieri. Ok, vediamo se torre di controllo c'è. Avanti Claudio. Sì, stavo pulendo. Chi è che è andato via? Franco Binario. Ciao Fra, un abbraccio a tutti, ci sentiamo. Vai Sorso. No Claudio, sono andato via anche io. Mi stanno chiamando a cena. ci sentiamo, ciao Fra. Ciao Fra, e io ancora che le so, le 8 e ancora qualche minuto rimango, vai Roberto. Sì, li ho già salutati. Ma cambiamo segnale da questa radio all'altra che avevo prima. Questa è una trubianetta. No, segnale Fra. Sì, è il segnale che del radio, questa è più forte. Ma non lo so, questo è il 44. Eia, oh, piano biscio. Va bene anche quella là, però questa è più forte del radio, anche il segnale. No, perché qua il microfono è proprio a me, si può sollevare molto di più il coso, come il 94, ragazzi. Ho capito. No, lasciala così. Quella deve cambiare gestione. Sì, adesso appena si sviluppa la situazione, l'antenna diretta, la matta l'avevo letto su questo. E l'M3000 lo uso per commutare il 2000 e il 940. Esatto, bravissimo. Quelle devono andare in banda amatoriale, no? Non sono radio da tenere qua. Qua va bene il 44 e company, capito? Quindi no, non c'è problema, poi già ci organizziamo bene. Tanto venire con Marco. Fabri ha detto che l'ha già fatto sopralluogo. Fabrizio è venuto venerdì sera, era quasi buio, quando siamo saliti giù, ma manco si vedeva, però vabbè, sono tornato già a vedere, e mi ha detto delle dritte, da cui il parere di più di una persona messa insieme fa molto meglio che di uno solo. E vabbè, lì pochi pareri ci sono, quando piatti quello che ti do io devi andare da una punta all'altra. Capito, te l'ho già spiegato, funziona molto bene. Poi per le altre cose ti dovrai chiaramente affidare a loro, perché non sono competenti. Io quindi poi me l'ho piazzato, non mi ha detto Marco, da una parte all'altra, e ti dico che lavorava bene, 15, 20 e 40 è un bel dipolo, una bella antenna. E io non so se tu hai la parabola grande, tanto non la sto usando, è ferma, devi magari mettere il coso per tenere sollevato il dipolo. Adesso devo vedere, devo valutare. La parola è perché di sollevare il dipolo. Il dipolo prima si stende da una punta, quindi per capirci, dal muro che hai verso l'officina all'altro muro che hai verso l'altra parte del palazzo, ok, dove abita Raggi. Ma lui mi ha detto, come si chiama, Fabrizio, di metterlo sulla mantova con una carrucola. È pesante, forse lui non ce lo ricorda, lui è convinto che sia quello monobanda, non è quello monobanda, è pesante come di polo. Poi la scaletta dove la fai scendere? La scaletta deve andare in orizzontale, non deve andare a proiezione verticale, altrimenti non funziona con l'antenna. Sì, quello già lo so. Lui ha detto ti attacchi un braccio alla mantova e l'altro dall'altra parte. Ma ci arriva? Non penso che ci arrivi, cos'è un braccio? No. Quello noi possiamo fare dove c'è la mantova, probabilmente, ma devo vedere, agganciarlo il centrale a una carrucola, poi a un gancio o qualcosa, e mandare un braccio verso dove sta la scia e l'altro verso dove c'è l'officina, se ci sta. Però sono più di 15 metri, 18 metri da una parte e dall'altra parte anche di più. Bisogna mettere però un palo da una parte e un palo dall'altra parte per attaccare le punte, non è che lo puoi attaccare a terra, eh? Sì, assolutamente, quello sì. Infatti io stavo pensando di utilizzare uno di quei pali a parabola, quella parabola con la grande, che tanto, ripeto, non la sto usando, mettere un palo di lì in modo che lo distesi dalla mantova a quel palo della parabola, e visto dove c'è quel paletto vuoto, e avanti c'è quella parabola grande, togliene quel palo di lì e metterne un altro dritto. Dritto Roberto, dritto, non puoi metterlo appena Marco metto, può andare inclinato, se no deve andare dritto da una parte all'altra, dritto, deve camminare dritto per tutto il terrazzo. Se dove c'è la parabola, io lo so, fa troppo curva. Vabbè, la prima cosa bisogna secondo me distenderla in terra e vederlo. Esatto, io adesso vediamo se questo imbecille mi apre su, perché io ho dato le chiavi, se mi apre, ma penso di sì, ma non ci sono problemi, ce l'ho dato io, non c'era. Lo prendo e lo porto in officina, saliamo, lo stendiamo, giusto per avere un'idea, e poi ci piazza, è una stronzata a piazzarlo quello. Mi pare ci andrà a cambiare gli occhielli a quello degli 80, mettere gli occhielli nuovi e basta. lo vediamo quello lì. Se poi la peggiore ipotesi non ci sta con l'80, mettiamo 40, se ne è 40 metri. No, con l'80 lo puoi mettere full side da solo. Io l'ho agganciato lì per avere un'unica discesa, ma siccome tu c'hai 5 carate, 5 attacchi, un'unica carata, puoi attaccarlo anche lì quello degli 80, non c'è problema, capito? Quindi quello degli 80 lo si può fare, si può mettere con la carrucola, come ha detto Fabrizio, sopra la mantova e lo stendi da una parte all'altra, anche a V invertita. Se è troppo lungo le facciamo una Z da una parte, una a destra, una Z a destra e l'altra le facciamo la Z a sinistra a chiudere. E infatti Walter ha detto così, facendo una Z, no Walter, Marco. Esatto, e loro mi hanno insegnato a me, non è che me le ho inventate io, non proprio Marco, Fabrizio, Walter, queste cose me le hanno insegnate loro, quindi te lo sto dicendo, io l'ho montato e andava molto molto bene, ma veramente molto bene. Arrivavo 9:20 a Cagliari in 80 metri, la sera facevo dei bellissimi QSO, capito? Perché il dipolo va benissimo. Quello lo puoi mettere singolo se non lo vuoi attaccare a quello lì. Allora un altro pianeta, capito? Lo metti full side, appena appena V invertita, sopra in alto la mantova e l'altro leggermente più sotto a polarizzazione orizzontale. Sì, sì, tu lo vediamo. Ma prima di tutti la cosa, le V e le U, quello che volevo fare prima di tutti è vedere. Cosa, addirittura lui dice che da casa sua, vabbè, lui sarà sicuramente aperto, più di me non c'ha la collinetta di Usilo che interferisce, dice, ma Gianfranco riesce a citare il ponte dell'imbarco. In me fa senza antenna l'imbarco qua. Ma anche tu lo eciti, non ti preoccupare. Certo, con quell'antennina lì non va bene. Quell'antenna, prima di fare altre cagate, altre prove, si toglie da lì, si mette dove avevi quella verticale, quella 5 bande, e sono convinto che funziona benissimo, perché ce l'ho uguale quell'antenna, eccito tutto, arriva tutto alla grande. Sì, l'alziamo di più, tanto qua non ne ho quanto nel buio. Sì, i pali ce ne sono qua, ce ne sono ancora carbonati, di pali, di tubi, di tutto, cosa, non abbiamo problemi. Non abbiamo problemi, capito? No, non ci creiamo problemi di nessun genere noi. L'importante è fare queste prove e vedere dove radia meglio la verticale per le V e per le U. Però se lì non va bene, mettiamo un altro tubo, due staffe normali, che è leggerissima quella, e gliela affianchi dove c'è la mantova, lì in quella parete lì e la tiri su. Addirittura coso, Fabrizio mi ha detto di fare un tiro nel palo della mantova e metterla di lì, da una parte ci metto, attacco il dipolo e dall'altra parte attacco la bimba. E una U ce l'ho anch'io, quella, anche quella è a Carmonazzi. Capito, io ci avevo le due X300 accoppiate, ma ti parlo quando ero W0, quindi noi abbiamo fatto bruvi. Ne abbiamo, materiale ne abbiamo, non devi comprare niente Roberto, ci abbiamo tutto quello che serve. Io direi fare prima una prova dove c'è quel palo vuoto, l'hai visto, sollevato di qualche metro, però tiranti non ne voglio mettere, la lascio con un palo ben robusto, senza tirare, tanto l'antenna leggera, me lo stai dicendo anche tu. Mica fretta quell'antenna, perché io tirante c'ho nella X300, la tirante non voglio nulla io, due tiranti ci vogliono, ho messo un palo da 3 metri ed è lì e funziona perfettamente tutto, anche in diretta, da tutte le parti, no? Non c'è problema, mi arriva Olbia in diretta con quell'antenna, figurati, cosa che non ricevevo da Carbonazzi, ma stai scherzando, senza segnale ma sento la voce, quindi è già un miracolo, va bene. Quelle prove dobbiamo fare, Roberto. Una volta fatte quelle prove tu sei a cavallo. Sì, sì, infatti ho chiesto consigli di altre persone, siete tu, Fabrizio e Marco, e con le vostre esperienze mi aiutate certamente. Ok, Gianfranco si è liberato, vediamo se c'è. Avanti Gianfranco. Sto lavorando per te. Beh, io sicuramente ho meno esperienza di loro, però ho visto come abbiamo fatto e quindi le verticali me le ho sempre piazzate io da solo, no? Però se parliamo di altre antenne è chiaro che devi avere l'ausilio di loro che hanno più esperienza, capito? Però le verticali no, non c'è problema, poi quel tipo che siamo noi, la piazzi, non ha bisogno accordare di niente, è già fatta e deve avere un certo margine, non la puoi attaccare ad un'altra antenna, un muretto, deve essere libera, una volta che l'antenna è libera, questo è pur certo che lei lavora bene. Infatti io la voglio mettere in quel palo lì, dedicata solo alle V, alle U, così non mi rompo le scarpe. Poi magari si alza di un paio di metri il palo per non avere problemi. Sempre secondo me, poi vediamo, se non va bene si troverà un'altra soluzione, ma se mi stai dicendo che tu riesci a citarlo, almeno Monterraggio dovrebbe citarlo, no? Monterraggio tutto arriva, però tieni conto che io sono più avanti di te, sono anche un po' più in alto e sono anche più libero rispetto a te, tu sei in città. Potresti avere qualche problema, ma non penso, perché io da casa da Carbonati le citavo tutti i punti, anzi ero l'unico che arrivava a Monterraggio in diretta quando facevano le prove, c'ero sempre io in ascolto per provare, per capire, quindi non è che tu sei in basso, ma va. E Alberto, ciao. Ciao, buonasera. Altri, ma chi te non sei uscito? Ciao, Alberto, buonasera. Guarda il capo del microfono, eh. Ora, ti andendi? Sì, già stai andando adesso. Capito, Roberto. Poi lo vediamo, tanto me lo avvicino a te perché dobbiamo fare una cosa. Devo fare con te, poi decidiamo l'ora, eccetera. E quando vuoi già lo sai. Il Danilo va sempre alla furgonetta, e vabbè, se noi lo facciamo dopo pranzo già viene bene, è l'orario più tranquillo, meno brutto e in officina c'è meno movimento. Beh certo, l'ora di pranzo lo facciamo allora. Magari ce ne andiamo a pranzo assieme. Quando chiudi e poi facciamo questa cosa. Ma ce l'ha lui dopo, dobbiamo aspettare che arrivi lui, arriva alle 2:30 a Roberto. Poi andiamo in macchina a pranzo, poi passiamo in officina, prendiamo il dopo e facciamo quello che dobbiamo fare. E allora, Cicco. E allora, come sta arrivando stasera? Già sta sbattendo poco già. Caspita. Come arrivo il segnale? 9:10 sì, Anto, con picchi positivi. Da coso? Vabbè, con i picchi arriva a 9:30. Già andava, dai, è perfetto. Vabbè, ho lasciato come ha detto Claudio, dai. Stavo dicendo, mi stavo aperto la serata che ho fatto sabato. L'ho vista, ma tutte quelle luci chi sono le tue? Allora, detto so. Belle. Cappa. A ginocchi laggiù, se vuoi ti approvo a casa drogo, ti mando le foto. Già l'ho visto l'impianto, oramai si è diventato psichilerico, vero Roberto? Ma chi era quello che stava cantando tu? Lui è Costantino. No, non lo conosco. E dove è il locale? Non ho capito. Il locale dove si trova? Corso Vittorio Emanuele. Vabbè, io non è che nei circoli non ci vado, sono entrato per sbaglio giù da Raggio d'Oro perché quello l'ha fondato mio nonno, uno dei fondatori, e mi sono fatto fare la copia delle, c'è la foto, non so se siete mai andati a Raggio d'Oro, ci sono i fondatori e quelli che l'hanno scritto, ma ho fotografato quel quadro che c'è di lì e poi dove ci sono tutti i nomi dei fondatori, quando l'hanno aperto e tutto quanto, e poi ci sono la fotografia che hanno fatto tutti insieme, tra cui c'è mio nonno e un mio zio. Belle cose sono, gaffa. Oiami, è pronto a mangiare. Ci sentiamo dopo, dai. Gaffa, Adesso non c'è, a lui non vuole attrezzature lì. Lui c'ha la casa, il mixer. Ne ha due veramente di casa. Però per comprare quelle cose vivo pure qualche cosa in busciacca. Ma tu ogni volta devi scendere le casse e tutto quanto? No, questa volta solo le luci. Ma le casse vanno le sue o le tue? Le sue l'ho fatto solo quando c'era il gruppo Romonti, io ho portato le mie. Ok, vai qua. Ehi, Antonè, ma non c'è una buon tutto. Già è un bel impianto. Almeno ti diverti, guadagni qualche soldo in più. Beh, ci aggiorniamo, saluta Sara. Capa ti saluta, manda a mania che so che appena arrivato. Ciao, buon tutto, dai. Cappa, e domani c'è la Champion, canale 5 l'hanno la Juve. Stasera c'è il Torino, c'è la Serie A, mi sembra una o due partite stasera. Forse una sicura, però non so, sono due. Domani la danno a canale 5. Ma meno male, stanno una cima, no. Già va bene, e domani ce la guardiamo, infatti ci abbiamo un po' di roba da arrostire, se fa bella giornata, se no non fa faccio sotto la veranda. Sì, poi mercoledì c'è, forse, non so se è martedì o mercoledì, se domani l'Atalanta, poi c'è l'Inter, forse c'è il Milan che è decisivo a giocare con l'Atletico di Madrid, e poi c'è l'Inter con quella Shakhtar Donetsk, come si chiama? Cazzo, lo Shakhtar Donetsk, mamma mia, proprio forse chi sarebbe. Guarda, quella squadra lì è sempre stata un problema per tutte le italiane, non dire è una squadra goliziata, è sempre stata difficilissima a giocarci. Non so se passa l'Inter, c'è un girone di merda, speriamo bene. Speriamo bene, è molto più facile il girone della Juve. Sì, quello del Milan, perché di debole il tiro. È stato sfigato, ha perso, secondo me, diciamo 2-4 punti rimancano al Milan, perché gli aveva dato quel rigore inventato, chissà se la punizione inventata, e ha perso 4 punti. No, sai com'è. Noi ci incazziamo, avete vinto del rigore, vi ha dato rigore, non c'era, c'era. E purtroppo l'arbitro Vandolisi è uscito, non è venuto da là. Ehi, hai visto quello del Napoli, Osimhen, adesso deve stare più di un mese fermo. Poi come rientra c'è la Coppa d'Africa, e a febbraio dite che rientra. Questo è l'handicap dei giocatori stranieri, non c'entra affatto. Tu che sei nel mondo del calcio lo sai, la nazionale italiana cioè era carica di giocatori, perché la Serie A erano tutti italiani, a mano ve ne è più uno, l'Inter, la Juve, il Milan, c'hanno la squadra tutti di giocatori stranieri. Guarda, l'Inter, tu di Barella e l'altro che non sa neanche giocare, quello De Lorenzo, sono tutti tanti stranieri. La Juve, tu di Bonucci, chi c'è poi? Quelli lì quando gioca, Chiesa, Bernardeschi, quando gioca, lo stesso tutti stranieri, non esiste più il discorso. Ho visto il Sassuolo giocare contro il Cagliari, c'è quello Scamacca, non so se tu l'hai visto giocare. Io non ho capito perché non lo fanno giocare in nazionale e ti tiene nei ghizzi bidoni che vi sono in attacco. È un fenomeno quel giocatore. Io l'ho sempre detto, Sassuolo c'ha dei bravissimi giocatori, l'ho visto, ma già pensavo che il Cagliari vincesse 3-2, cazzo. Oh, c'è da dire, ha rischiato di vincere, ma ha rischiato di perdere, ha fatto quella parata a cranio, mi ha salvato la partita. Sì, ha visto, mia parata, ha avuto anche un po' di fortuna. No, ma era una bella partita tirata, io ho visto il primo tempo un pezzettino, poi ha segnato, poi ho detto oggi ne biglia 0, poi il ritorno, cazzo, 2-2, in pochi minuti hanno fatto il gol. Perché ci credi o non ci credi, vabbè, cazzo, non stai perdendo, cioè ci devi credere, capito? Io ho visto una grande Juve contro la Lazio, a prescindere dai due rigori che gli ha dato che c'erano, anzi io pensavo che il portiere lo mandasse fuori, invece il metodo non si può espellere, e le due parate che ha fatto poi, capito, Reina su Chiesa, su Kulusevski, come ti cazzo di chiama, ma parate proprio, parata da quelle erano gol fatti. Sì, l'ho visto anch'io la partita, siccome ho visto l'Inter, anche l'Inter era una bella partita, ha meritato l'Inter, non devi dire niente. Poi chi c'era? Vabbè, poi l'Atalanta l'ha fatto, mi pare 5, l'Atalanta l'ha fatto, boh. Tanto ne aveva preso in Coppa City, infatti aveva fatto 90 gol, mi pare, 72 gol, mi pare, aveva fatto l'anno scorso, adesso c'è allucinante con la squadra, è davvero triste adesso. Guarda, se la Juve batte anche l'Atalanta, allora stai pur certo che si sta mettendo in corsa anche per, non solo per la Champions, ma per i primi posti. Capito? Perché l'Atalanta è una brutta gatta da pelare. No, l'Inter l'ho vista, ci ha giocato bene, ha meritato. Meritava anche, poteva anche pareggiare. Sì, alla fine si sono svegliati, ha fatto con la parata andano invece micidiale. Lo so, però quando chiudi bene, giochi bene, poi centrocampo è un mostro, Barella è un grande giocatore. Sì, ma c'hanno anche altri ricambi, hai visto entrato Vidal, cioè c'hanno una panchina come rosa, non so se la Juve sia meglio, ma se la giocano come rosa. Beh, finalmente sì, perché prima non ci avevano panchina l'Inter, adesso ci avrebbero i giocatori anche in panchina, quindi può fare i cambi tranquillamente. Ma non è che Sovedano non è mai Biazzurro, è un giocatore che ti può creare problemi, è un giocatore che ti può far ti può lasciare la squadra in 10, è una cosa allucinante, falloso. Adesso infatti dalla Juve ci hanno sbattuto fuori, anche per comportamenti fuori dal campo, extracalcistici, così quello che ci ha preso il caccia adesso è quello del Cagliari, certo ci hanno sbattuti fuori, tutti per questi comportamenti, ma anche i sudamericani sono tutti così, un pochettino ribelli. Se invece prendi un giocatore tedesco, croato, quelli sono dei professionisti. Infatti io, facendo una squadra, sceglierei i giocatori preferibilmente in questi paesi dell'est, che sono tutti super professionisti. I brasiliani, argentini, tolto qualcuno, Minetto di Cacca e qualche un altro, Zanetti, sono tutti viziati, appena c'hanno tre leader subito nel combinare tutti i colpi. Ma vediamo un bel gol, vediamo un bel gol, sempre un briaco, ha sfasciato poco macchina, ha fatto poco il casino. Io lo so, e anche Cáceres, eccetera, parecchi ce n'è, parecchi. No, io ho visto Delitti, sta crescendo parecchio, vedrai che Delitti diventa un secondo Chiellini. Delitti, io da quando l'ho visto giocare, è il più forte giocatore nel suo ruolo, nel futuro nel mondo non ce ne sono, è troppo forte, ma mi è piaciuto sempre dall'inizio, è giovane ma c'ha un'intelligenza, una forza fisica, una tecnica, c'ha tutto, mi ricorda Nesta dei tempi buoni, non è Nesta perché Nesta è unico, però c'ha una tecnica, un'intelligenza calcistica, un'eleganza, a me sono innamorato come giocatore di Litte, posso dire per me nel suo ruolo attualmente è il più forte di tutti. Chiellini gioca di esperienza, duro, contratti duro, però questo sa usare i piedi pure. Questo è lontano Lazio, difesa, ma sta giocando molto bene, sta crescendo, poi con Bonucci hanno una buona intesa, prima Titta non ne aveva un'intesa, capito? Non ne aveva un'intesa, adesso si intendono bene, quindi il duo funziona. Mi dispiace per Danilo che si è infortunato. Ma c'ha 23 anni, mia, lo sai quanto c'ha margine di crescita. E poi l'hanno intervistato, dovevo sentire parlare, proprio mi è piaciuto, ha dato una risposta ieri. Hanno chiesto che giocatore lo sta impegnando, questo giocatore ieri dal Napoli, che cacchio c'era, non ricordo così me, ha detto ne parliamo a fine partita, le conclusioni si hanno a fine partita, perché un altro avrebbe detto no, riesco a controllarlo bene, lui invece è stato molto, ha risposto con grande personalità, ha detto ne parliamo a fine partita, se sono riuscito a bloccare. Il Chelsea c'è Lukaku in Dorra, mamma mia. Ma Chiellini non è ancora fortunato? Non lo so se non l'ha fatto giocare perché deve giocare contro il Chelsea per marcare Lukaku, ma se non gioca Chiellini sicuramente giocherà Delitti, Bonucci. Sì. Andate a cena, dai, bravo. Via Gianfranco, e beh Gianfranco. Guarda, io ho finito a mangiare adesso ho ripreso da dove ero finito perché mi sta andando anche sul programma che nuovo messaggi strani tipo mica non ce la faccio, mica sono anziano, attenzione che faccio del fumo. Oh dai, che è entrato Gianfranco e ti lascio con lui. Ciao Gianfranco, vado a mangiare un boccone se ci siete dopo, vai Rob. Sì, vai, buona cena, no, io già cenato, ebbene pure, vai Gianfranco. C'è su Claudio, sta facendo i fuori, si cinghiale la zona, ogni giorno a cinghiale, ma almeno le patate ce le metti. La cinghiale è già dal mese scorso che non ce ne sono più di lì. E allora cosa si sta mangiando? Adesso ci sono le selvaggine, quelle tipo cinghiale, non cinghiale come si chiama, lepri, cose di basso, di terra, basso. Ma non ce l'avevamo mangiati all'inizio quelli, perché il cinghiale è sempre l'ultima delle cose. Alla fine sei stufato, bisogna dire, sugo a cinghiale arrosto, salsiccia di cinghiale, almeno ha detto Gladio, e buh, e basta. Comunque io sono stasera che ascolto, non è che entro, quindi poco fa ho sentito che volevo saltare dall'R0 funziona, da qua anche col gommino quello un po' esteso. Vado su, sono andato su, mi avrei dove c'è una luna che fa paura, tonda, sembra quasi che stia cadendo sulla città. E niente, se passo non lo so, che staziona sicuramente sì. Sì, e beh, invece della cosa famosa che stai sistemando, novità. Sì, te l'ho detto, che è una cosa che, guarda, mi lascia perplesso, il messaggio che mi ha dato e che sugli altri non dà è praticamente c'è un problema sul drive, non ce la faccio avviarlo, cioè non l'avvia neanche.